Capitolo 3. Modi e mezzi. Cos'hai veramente, veramente intenzione di farlo, Gertie? Sì, veramente, Con. Era il giorno prima della svendita e le due ragazze, Gertrude Lorimer e Constance Devonshire, stavano facendo il giro del giardino per l'ultima volta. Era stato un giorno di commiati. Solo un'ora prima la sventurata Fan era rotolata via verso Lancaster Gate in una carrozza chiusa appartenente alla famiglia Pratt. Lucy era sul treno diretto al nord con il signor Russell e al piano di sopra Phyllis stava chiudendo le sue casse prima di avviarsi a Queen's Gate con Constance e la sorella. Se non fosse stato per il signor Russell, continuò Gertrude con entusiasmo, l'intero progetto sarebbe andato a monte. In verità tutte le persone care, dotate di buon senso, si sono poste al piano con le unghie e con i denti. Invece, in confidenza, il signor Russell mi ha detto che lui non dava alcun credito al buon senso. E che dovevo ricordarmelo prima di affidarmi a lui sotto qualsiasi aspetto. Ebbene, non trovo che ciò sia particolarmente rassicurante, Gertrude rise. Perlomeno lo ha adottato come giustificazione al suo caso personale. Che persona deliziosa. È apparso per davvero qui, in carne e ossa, esattamente il giorno dopo che ha scritto. Il buon senso non gli avrebbe mai fatto fare una cosa del genere. Sei proprio intollerante, Gertrude. Spero di no. Dunque, il signor Russell ha insistito per andare dritti allo studio, a esaminare le nostre attrezzature e il nostro lavoro. Ha rivoltato ogni cosa, è rimasto totalmente immerso, proprio così, tra le fotografie per un tempo così lungo e nel mentre era così silenzioso e così serio che ho iniziato a spaventarmi. Alla fine, alzando gli occhi, ha detto in modo brusco: "Questo lavoro è buono." Dopodiché ci ha parlato con molta serietà. Ha sottolineato i rischi inevitabili, le possibilità di insuccesso in cui un'impresa come la nostra potrebbe incappare, ma ha concluso dicendo che non era affatto un'assurdità e che per quanto lo riguardava, il suo motto nella vita era sempre stato chi non risica non rosica. Evidentemente una persona che può andarti a genio, Gertie. Ha aggiunto che il modo migliore per cominciare sarebbe, se possibile, quello di acquisire qualche piccola attività avviata. Però dal momento che non possiamo permetterci di aspettare, siccome le nostre attrezzature sono davvero buone per quanto antiquate, non dobbiamo scoraggiarci se non ci si presenta l'opportunità di farlo. Anzi, faremo meglio a metterci all'opera per conto nostro. In più, dice lui, nella peggiore delle ipotesi potremmo sempre trovare un impiego come assistenti fotografe. Ma Gertie, perché non fare proprio così all'inizio? Avreste molte più probabilità di successo nell'attività in seguito. Disse Connie, per parte sua non contraria al buon senso e che a dispetto della tanta leggerezza di superficie era nella sostanza una corta, lungimirante figlia della City. Se dicessi che la prima possibilità è la vita e l'altra la morte, rispose Gertrude con il suo incantevole sorriso, forse considereresti l'osservazione indegna per una donna d'affari. E dopotutto ho il dubbio che questa espressione faccia al caso mio. Noi vogliamo una casa e un lavoro, Connie. Un lavoro reale che ci dia da vivere. Pensa alla piccola Phyllis, per esempio, arrancare da sola fino a qualche grande negozio con qualunque tempo e qualunque stagione. La piccola Phyllis è più grande di tutte voi e di certo capace di prendersi cura di se stessa. Vorrei, suona poco fraterno, che non fosse così bella. È un bene che non ci sia nessuno dell'altro sesso ad ascoltarti, Gertie. Diverresti subito l'argomento per un sermone. Predatori e femmine, o qualcosa del genere. Ma ecco Phyllis. Leggera, gaia e spensierata, la più giovane delle Lorimer avanzava verso di loro. Il sole di aprile si rifletteva nei suoi occhi, i colori dei fiori si riverberavano sulle sue gote. Mia cara Gertrude, disse con condiscendenza, lo sai che è mezzogiorno in punto? Che le mie casse sono pronte e sigillate e che tu non hai messo via nemmeno uno straccio. Gertrude spiegò che non intendeva lasciare la casa fino al pomeriggio, ma che le altre due sarebbero andate subito a Queen's Gate e non avrebbero fatto attendere la signora Devonshire che le aspettava per pranzo. Dopo qualche protesta, consentirono a fare in questo modo e in pochi istanti Gertrude Lorimer si ritrovò da sola nel giardino familiare, dal quale presto sarebbe stata bandita per sempre. Camminando lentamente avanti e indietro per il viottolo che calpestava di sovente, si sforzava di raccogliere i propri pensieri, di riesaminare con calma gli eventi degli ultimissimi giorni. Nonostante il suo dichiarato disprezzo per il popolare idolo del buonsenso, la sua mente pululava di dettagli pratici, con pressanti interrogativi sui modi e i mezzi. Questioni simili parevano più nebulose senza la calma e l'influenza confortante di Lucy. Infatti Lucy era stata portata via dal buono ed eccentrico signor Russell per un apprendistato di 3 mesi nel suo prospero stabilimento. Farò in modo che vostra sorella prenda qualche nozione amministrativa, in aggiunta al perfezionamento di quegli aspetti tecnici di cui abbiamo già discusso. Era stata la sua promessa al momento della partenza. Mentre per quanto riguarda voi, signorina Lorimer, conto che vi guardiate attorno e che troviate la giusta sistemazione per quando i 3 mesi saranno trascorsi. Magari uno di questi giorni indurremo a restituirci la visita. Era stato deciso che, per l'immediato, Gertrude e Phyllis avrebbero approfittato dell'invito dei Devonshire, mentre Fan, schiacciata dal peso di una volontà superiore, si era convinta a cercare temporaneo rifugio in casa della signora Septimus Pratt. La povera zia Caroline era rimasta veramente turbata e rammaricata per il risoluto, sebbene educato, rifiuto delle nipoti di accettare la sua ospitalità. Al di là della differenza di opinioni, non riusciva a vederne nessun ragionevole motivo. Se la sua pelle era spessa, il suo cuore non era di pietra, e quel cuore si sentiva mortificato nel constatare che le figlie della sua povera sorella dovevano preferire, in un momento simile, la casa di estranei alla sua. Ma i giovani sono ostinati e lei alla fine aveva dovuto accontentarsi di Fan, che era una povera creatura e in fin dei conti una parente illegittima. Riesaminando tutte quelle questioni che nella situazione attuale gravavano su di lei, facendo ordine fra i suoi pensieri, raccimolando le energie che aveva per le battaglie a venire, Gertrude sentì il polso accelerare e il cuore ardere con coraggio. Delle più oscure possibilità della natura umana e della vita, questa ragazza, che si reputava vecchia ed esperta, non aveva la minima cognizione, salvo qualcuna sopraggiunta in brevi lampi di intuizione attraverso fugaci barlumi mal compresi o mal ricordati. Anche se le circostanze le avevano concesso del tempo libero, non era una donna che stava a rimuginare sulla sventura personale che le era toccata in sorte. Il suo orgoglio era troppo profondo e troppo suscettibile. Piuttosto si era ritratta quel pensiero come da un contatto immondo. Se la fronte aggrottata e la faccia espressiva suggerivano inventiva e un'emotività intensa, la mascella squadrata e la bocca decisa davano nondimeno prova di forza e padronanza di sé. E tutto il suo dolore sarebbe stato votato al lavoro, disse Gertrude a se stessa, quasi inconsapevole. Poi qualcosa dentro di lei rise in segno di sprezzante protesta. Dolore! In quel giorno di primavera, con la giovane vita che le scorreva nelle vene, con tutto il mondo davanti, un continente inesplorato di brume violacee e illimitate possibilità. L'aria mite e pungente suggeriva accenni a una gioia sottile, sussurri, promesse che non avevano nulla a che fare con l'acido pirogallico e l'acetato di soda, con i processi di sviluppo, fissaggio o rinforzo. Un grande albero di laburno si ergeva a un capo del prato, per metà fiorito e tinto di un oro pallido, un mandorlo in fiore accanto e più in là un odoroso vecchio melo, rosa per i gatti. Gli uccellini cinguettavano e si richiamavano l'un l'altro da tutti i rami. Le foglie degli alberi, il prato, gli arbusti e i cespugli indossavano il vivido e delicato verde dell'inizio della primavera. La vita fremeva e pulsava, insinuandosi in ogni pertugio disponibile. Gertrude, come sappiamo, aveva intrapreso la strada della poesia. Possedeva un cuore ribelle che urlava, talvolta in maniera davvero inopportuna, per la felicità. E ora, mentre beveva la meravigliosa fonte di quel mattino d'aprile, si scopriva improvvisamente assalita e oppressa da un'estasi senza nome, una bramosia estrema, fatta per metà di speranza e per metà di disperazione. Dolore, fatica. Cosa aveva a che fare con loro? Amo tutte le cose che tu ami, spirito della gioia, gridarono le voci dentro di lei all'unisono. Perdonatemi, signorina, disse Kittel apparendo all'improvviso e disperdendo in maniera piuttosto rude le affollate fantasie di Gertrude. Sono venute delle persone da Pantechnicon, per quegli apparecchi fotografici e le altre cose che dicevate di consegnare. Sì, rispose Gertrude, strofinandosi gli occhi e aggrottando le sopracciglia. Sopracciglia curiose e caratteristiche le sue, dritte e folte, e convergenti leggermente verso l'alto. Ogni cosa che dobbiamo mandare lì è impacchettata e pronta nello studio. Avevano deciso di tenere qualche mobile, insieme agli apparecchi fotografici e le attrezzature dello studio, per il trasferimento nella nuova casa, dovunque e qualunque sarebbe stata. Benissimo, signorina Gertrude, posso portarvi qualcosa per pranzo? No, grazie, Kittel, e devo dirti addio e ringraziarti per tutte le gentilezze che ci hai riservato. Dio vi benedica, signorina Gertrude, e benedica a tutte voi. Mi sono azzardato a dare il mio indirizzo alla signorina Phyllis, e se c'è qualcosa di cui posso prestarvi servizio, non pensateci due volte, ma scrivete subito a Jonah Kittel. Sopraffatto dalla sua stessa loquacità e senza attendere risposta, il vecchio si trascinò giù per il vialetto, lasciando Gertrude stranamente commossa da quell'inaspettata dimostrazione. Ci siamo ripromesse di non essere ciniche, pensò. Cinica? Qual è il significato di certi attuali luoghi comuni sul perdere gli amici insieme alla ricchezza? Come sono sorti? Quale perversione dell'immaginazione può avere portato alla creazione di una persona come il Timone di Atene, per esempio? Se la miseria setaccia il flusso della compagnia, sicuramente la colpa appartiene a persone miserabili. Mettendo sulla bilancia la quantità degli amici accorsi al momento del bisogno contro l'unico che si era rivelato solo un amico delle ore liete, Gertrude si rifiutò di lasciare che la sua fiducia nell'umanità venisse scossa. Ah, Gertrude, ma questo è solo l'inizio. Capitolo 4. Numero 20b. La tenacia del proposito delle Lorimer, sostenuto dall'aiuto e dal favore del signor Russell, alla fine riuscì a procurar loro una rispettosa considerazione da parte dei pochi amici e parenti che avevano un qualche diritto di interessarsi ai loro affari. Zia Caroline, cambiato atteggiamento, smise di parlare del progetto come non fosse neanche degno di disprezzo, ma lo denunciò come pericoloso e indecoroso per una donna. Parlò liberamente di perdita della posizione sociale, di perdita di prospettive in certe fragili proprietà del gentil sesso e delle intricate disgrazie che sarebbero necessariamente derivate da un'impresa completamente priva di accompagnatori. Zio Septimus parlava poco, ma riusciva a comunicare alle nipoti segnali silenziosi di supporto e comprensione, mentre i Devonshire, dopo molta resistenza, avevano finito per lanciarsi loro stessi, da persone eccellenti quali erano, anima e cuore nel progetto. Per Constance, invece, il cambiamento negli affari delle amiche si poteva dire fosse sopraggiunto, simile alla penna Wowerly, come un dono o una benedizione. Era lei quella persona, sebbene non ne fosse consapevole, per la quale il vento allora avverso soffiava invece nella giusta direzione. Come molte ragazze della sua classe, aveva buone capacità, abbondante vitalità e nessun interesse al di fuori delle frivolezze. E per le facoltose classi borghesi, persino l'attività sociale è propensa a essere meno continuativa, meno coinvolgente che per i privilegiati nati per la ricerca del piacere. Si può dire che la sua amicizia con le Lorimer e con Gertrude in particolare avesse rappresentato l'unico elemento serio nella vita di Constance Devonshire. Così ora si buttava con immenso zelo e con devozione nella vincente attività di cercare casa, sulla quale per il momento erano concentrati tutti i pensieri di Gertrude. Dopo la svendita e la liquidazione, un processo davvero misterioso degli affari del povero signor Lorimer, alle ragazze venne comunicato di essere divenute proprietarie congiunte di 600 sterline. Una somma non esorbitante, se considerata come quasi l'intera fortuna di quattro persone, ma lievemente maggiore di quello che si erano aspettate. Ho detto quasi perché non si deve dimenticare che Fanny aveva una rendita di 50 sterline proveniente dalla madre, il cui capitale non poteva essere toccato. Non restava altro da fare che scegliere gli alloggi, sistemarsi al loro interno e iniziare l'impresa alla quale si erano votate. Per molti giorni estenuanti, Gertrude e Connie, accompagnate qualche volta da Fredo, dal signor Devonshire, percorsero la città da un capo all'altro, appesantite da mazzi di autorizzazioni per le visite di innumerevoli agenti immobiliari. Phyllis era troppo delicata per spedizioni simili e rimaneva a casa con la signora Devonshire, oppure l'accompagnava a fare spese. Amabile ma ironica, allegra ma mai esuberante, la bambina affascinante che tutti congiuravano per viziare, che tutti istintivamente proteggevano da ogni spiacevolezza. Un giorno le due ragazze tornarono a Queen's Gate in uno stato di notevole eccitazione. È di sicuro il posto più adatto che abbiamo visto, disse Gertrude mentre sorseggiava il suo tè e davanti al fuoco sbatteva gli occhi lucidi miopi. A così tante miglia di distanza da South Kensington, brontolò Connie, sciogliendo il suo ricco mantello e lasciandosi sul dolce con tutto l'appetito nato da quella onesta fatica. E l'affitto è un po' alto, ma il signor Russell dice che sarebbe sconveniente da un punto di vista economico iniziare l'attività in un luogo svalutato e buio. E così dobbiamo ostentare a caro prezzo, disse Phyllis piano. Ma tutto questo è molto vago, non è vero, signora Devonshire? Per favore, sii più precisa, Gertie cara. Abbiamo preso in esame alcune camere in Upper Baker Street, spiegò Gertrude rivolgendosi alla sua ospite. Ci sono due piani non arredati sopra una farmacia. Due piani? E che altro? Esclamò Connie. Non indovinerete mai. Al momento lo studio di un fotografo costruito fuori dalla casa. La signora Devonshire disapprovava intimamente il loro piano e si convinse ad appoggiarlo soltanto dopo giorni di persuasione. Qualcuno ha fallito negli affari lì, disse, altrimenti perché lo studio dovrebbe essere vuoto? Le ragazze avvertirono che l'obiezione era un po' irragionevole, ma Gertrude soltanto rise e disse: Questo no, però qualcuno c'è morto. Il nostro predecessore in affari è morto lo scorso anno. Almeno potremo subito occuparci di un fantasma, disse Phyllis. Penso che se andiamo lì potremmo diventare Lorimer con pianto tal dei tali? Che demoni siete voi due, obiettò Connie con un brivido, quindi riprese la parte più utile della conversazione. Lo studio è in condizioni piuttosto fatiscenti, ma se non lo fosse, l'affitto finirebbe solo per essere più alto e in un modo o nell'altro va pagato. Ci sono già molti grandi fotografi in Baker Street, obiettò la signora Devonshire. Le piacevano le Lorimer. Ma le temeva come compagne per la figlia. Non si sapeva su quale folle capriccio potevano condurre Constance a imbarcarsi. Ma signora Devonshire, protestò Gertrude con veemenza, mi è stato detto che è un bene che persone dello stesso mestiere si raggruppino, che si uniscano, per così dire, per creare un centro che venga a essere considerato il cuore commerciale dei loro particolari prodotti. Gertrude rise delle proprie frasi e Phyllis disse: Non guardare a tutto con occhi così poetici, Gertie. Il tuo cappello ha trovato la sua strada verso la parte posteriore della testa e sembri proprio ispirata. Raddrizzò il cappello mentre parlava e rimise a posto le ciocche di capelli ribelli. Non ci sono stanze da bagno, proseguì Connie con severità. Avevo un amore particolare per i dettagli pratici e poche possibilità di soddisfarli, a eccezione del proprio abito. E ora continuava a gettarsi nelle elaborate disquisizioni su argomenti come l'acqua calda e la fattibilità di doverla portare in recipienti. La conclusione finale fu che venne organizzata una spedizione in Baker Street per il giorno seguente, quando l'intero gruppo attraversò il parco fino a quella piacevole, anche se fuori moda, zona della città, con lo scopo di ispezionare i locali della Speranza. Era un freddo e luminoso pomeriggio, e nonostante fosse la fine di maggio, le ragazze indossavano i loro mantelli invernali e la signora Devonshire le sue pellicce. Quale numero hai detto, Gertrude? Chiese Phyllis mentre la carrozza svoltava verso New Street da Gloucester Place. Il 20B. Mentre entravano in Baker Street, un giovane uomo slanciato, di colorito acceso, scuro di capelli, balzò fuori con una certa impetuosità dall'ufficio postale all'angolo e sollevò il cappello mentre lo sguardo gli cadde sulla carrozza che si avvicinava. Constance si inchinò, arrossendo lievemente. Chi è il tuo amico Connie? Le chiese sua madre. Oh, un uomo che ho incontrato a qualche ballo. Credo che il suo nome sia Jermyn. Balla piuttosto bene. Connie parlava con una sorta di spropositata indifferenza mentre il colore delle guance aumentava sensibilmente. Ci siamo! Esclamò Phyllis. La carrozza si era accostata prima di un piccolo ma singolare negozio sul quale era dipinto in lettere d'oro Marion, chimico farmaceutico. È questo! Gertrude parlava con una strana intensità e il suo cuore batteva forte mentre scendevano e suonavano il campanello. La stessa signora Marion, moglie del farmacista, una donna di mezza età, magra dall'aspetto pensieroso, con un volto al contempo malinconico e benevolo, aprì loro la porta e li condusse nell'appartamento. Salirono per una breve rampa di scale, quindi si fermarono prima dell'apertura di uno stretto corridoio, abbellito dal sughero della Virginia e vetro colorato. Per prima cosa daremo un'occhiata allo studio, per favore, disse Gertrude, e sfilarono giù per il piccolo corridoio in pendenza. Ricorda fortemente il giardino da tè di una casa di villeggiatura. Non è vero, disse Phyllis, girando la graziosa testolina da un lato all'altro. Risero e si vide la donna malinconica sorridere. Oltre il corridoio vi era una piccola stanza, destinata senza dubbio a sala d'attesa o spogliatoio. Oltre la stanza, separata da un'apertura, intesa evidentemente per delle tende, veniva lo studio stesso, una struttura in vetro di ragionevoli dimensioni che necessitava di qualche riparazione. Dovrete rendere questo posto il più grazioso possibile, disse Connie. Non sarete nulla se non vi dotate di senso estetico. E ora alle stanze. Il piano immediatamente sopra il negozio era stato affittato a una sarta ed erano i due piani superiori a essere rimasti vacanti. Al primo di questi vi era una stanza di media grandezza con due finestre che si affacciavano sulla strada. La stanza era separata con delle porte a libro e da un'altra più piccola con un caminetto ad angolo. Questa potrebbe diventare il salotto principale, disse Connie, marciando su e giù per il grande appartamento. E questa, esclamò Gertrude, da dietro le porte a libro socchiuse, potrebbe essere magnificamente attrezzata come una cucina. Dovrete attrezzare una cucina economica, mie care, sottolineò la signora Devonshire, che si stava profondamente interessando, il cui spirito, dopo tutto, si era risollevato all'idea che su quel punto, almeno, poteva parlare a giovani donne dall'alto della sua conoscenza ed esperienza. Dovrete far allacciare l'acqua e avrete certamente bisogno di un lavello. Questa carta da parati grigia, proseguì Connie. Non è certo graziosa, ma perlomeno è neutra. Ed essendo praticamente infinito il male che una carta da parati può fare, suppongo dobbiamo essere riconoscenti per la piccola grazia a tale riguardo, rispose Gertrude, mentre spuntava fuori dalla cucina che stava immaginando e avvicinandosi alla parete per via della miopia iniziò a esaminare la decorazione banale. Al piano di sopra vi erano tre stanze, capaci di ospitare quattro persone come camere da letto e delimitanti la piccola proprietà. I signori Marion e la loro domestica occupavano il seminterrato e il salotto dietro il negozio e la moglie del farmacista suggerì che almeno per il momento forse alle signore avrebbe fatto piacere prendere qualche accordo per condividere i servizi di Matilda, essendo i compiti della ragazza, per come stavano ora le cose, a malapena sufficienti a riempire il suo tempo. La cosa si adatterebbe benissimo a noi, rispose Gertrude, perché intendiamo far gran parte delle faccende da sole. Si allontanarono con l'animo speranzoso, la signora Devonshire tanto interessata quanto una qualsiasi di loro. Ci vollero naturalmente alcuni giorni prima che fossero in grado di prendere una decisione sulla questione dell'appartamento. Varie persone dovevano essere consultate e varie questioni approfondite. Il signor Russell si precipitò dal nord appena gli giunse la lettera di Gertrude, esaminò i locali col suo modo svelto e accurato, entrò nei dettagli con straordinaria serietà, si pronunciò favorevolmente per la decisione di prendere quell'appartamento, fece un brillante elogio di Lucy e corse a prendere il treno. Pochi giorni dopo, le Lorimer si ritrovarono titolari di una locazione terminabile a 1, 3 o 7 anni per lo studio e per la parte superiore della casa, al 20B di Upper Baker Street. Quindi seguì una fase faticosa, avvincente e incessante. Per tutto il tiepido mese di giugno le ragazze lavorarono per mettere in ordine le cose nella nuova casa. Essendo le spese una questione di vitale importanza, si sforzarono di fare ogni cosa entro i limiti del possibile di persona. Di certo occorrevano operai per riparare lo studio e montare il camino della cucina, ma i loro servizi erano superflui per quasi tutto il resto. I mobili depositati al Pantechnicon si dimostrarono più che sufficienti per i loro immediati bisogni. Gertrude e Connie posizionarono i tappeti e appesero le tende insieme e Fred, svelando un insospettabile talento per la falegnameria, impiegò il suo tempo libero per fornire la casa di un'indefinita quantità di mensole. In realtà, lo spettacolo di quello splendido giovane che martellava in maniche di camicia su un paio di scalini, con il cappello immacolato e il cappotto messi da parte e la sua languida gardenia riposta in qualche angolo sperduto, Non era uno di quelli che si poteva facilmente trascurare o dimenticare. Era necessario, senza dubbio, acquistare qualche altro attrezzo del mestiere e il signor Russell si impegnò a procurargli al prezzo più basso possibile, aggiungendo a suo nome una macchina per la lucidatura. Le ragazze erano state finora abituate a farsi accomodare le stampe dalla Stereoscopic Company e le loro stanze vennero arredate nella maniera più semplice, mentre per lo studio venne adottato uno stile più ricercato. Lo sgradevole sughero della Virginia e il vetro colorato del piccolo corridoio furono nascosti con vari espedienti estetici, lanterne che dondolavano dal soffitto e qualche fotografia incorniciata di Dürer e Botticelli, Watts e Burne Jones, maliziosamente confusa fra i provini del loro lavoro, usati invece per abbellimento, come fossero un tipo di decoro qualunque. Una piccola porcellana giapponese di basso costo e tavolini e sedie con le gambe rosse trasformarono la sala d'aspetto, come disse Phyllis, in un perfetto salotto artistico e culturale, mentre Fred fornì così tanti telai grezzi, montati verticali e sfondi di tela allo studio che venne dichiarata sotto tutti gli aspetti come imminente la sua bancarotta. Sopra la porta che dava sulla strada fu sistemata una grande insegna nera, sulla quale era scritto a lettere d'oro G. L. Lorimer, studio fotografico. E nel vano della porta fu disposta una vetrina della quale l'elemento più vistoso era un ritratto di Fred Devonshire, che con un'aria di furbizia mista a pudore guardava attraverso una di quelle elaborate grate di sughero della Virginia. I Marion osservavano questi preparativi da lontano con una certa compassione divertita, con una gentilezza artificiosa che era piuttosto esasperante. Come la maggior parte delle persone della loro classe sociale avevano visto troppi gli alti e bassi della vita per rimanere meravigliati di qualcosa, e la vista di queste signore che giocavano a fare i fotografi e i tappezzieri fornivano solo una scena in più al vario e curioso dramma dell'esistenza capitato loro in sorte di testimoniare. Vorrei, disse Gertrude un giorno, che la signora Marion smettesse di essere così pessimista. È proprio come quella strega tormentata di Gilbert che viene fuori e profetizza una catastrofe, rispose Phyllis. Crede sempre che sia per piovere e nulla la sorprende così tanto come quando un pacco arriva in tempo. Ed è così premurosa per tutto. Le sorelle erano rimaste da sole in Baker Street quella mattina mentre Constance era impegnata a misurare un abito da ballo da Russell e Allen e ora Gertrude era sul punto di incamminarsi per il British Museum dove stava seguendo un corso di letture sulla fotografia diretto dal signor Russell. Guarda, esclamò Phyllis mentre spuntarono fuori dalla casa, dove va l'impetuoso amico di Connie. Ho scoperto che alloggia proprio di fronte a noi, sopra il banditore d'aste. Che razza di ficcanaso, dalla vista lunga resti sempre, Phyllis. Alla stazione di Baker Street si separarono. Phyllis comparve nella metropolitana, Gertrude montò coraggiosamente sulla parte superiore di un minibus Atlas. Perché chi non può permettersi una carrozza o neanche un carrozzino, argomentava a se stessa, deve essere escluso dalla luce del sole e dalle strade. Infatti, per Gertrude, gli spiriti della città avevano sempre avuto un fascino particolare. Contemplava lo spettacolo familiare di Londra con un interesse che vibrava di passione, e per quanto la riguardava, non era mai stata propensa ad accusare il destino che l'aveva trasportata dalla relativa mitezza di Camden Hill alle zone in cui si potevano percepire distintamente i battiti della grande città, come se colpissero e pulsassero. Alla fine di giugno i locali di Upper Baker Street erano decisamente pronti per essere abitati, ma Gertrude e Phyllis decisero di avvalersi di qualcuno dei numerosi inviti ricevuti e si rinvigorirono per l'imminente braccio di ferro con la fortuna, con 3 o 4 settimane di area di campagna. Infine giunse una sera memorabile, alla fine di luglio, quando le quattro sorelle si ritrovarono per la prima volta sotto il tetto che speravano le avrebbe protette per molti anni a venire. Quel giorno Gertrude e Phyllis arrivarono in anticipo da Scarborough, dove erano state insieme ai Devonshire, e intorno alle 6 apparve Fanny in una carrozza a 4 ruote. Era stata portata a Tunbridge Wells dai Pratt circa 6 settimane prima. Dopo che ebbe manifestato la sua gioia per la congiunzione con le sorelle ed ebbe ispezionato la nuova casa, Phyllis si diresse al piano di sopra nella camera da letto, mentre Gertrude rimase di sotto nel soggiorno, che misurava con curiosa eccitazione e con un'irrefrenabile smania. Povera, vecchia, Fan, disse Phyllis riapparendo, non penso sia mai stata così contenta di vedere qualcuno prima d'ora. Immagina tutti questi mesi con zia Caroline. Parla poco, proseguì Phyllis, ma da qualche osservazione sfuggita devo dire che le sue tribolazioni sono state piuttosto acute. Sì, rispose Gertrude distrattamente. L'ultima affermazione era piombata su delle orecchie noncuranti. La sua attenzione era interamente catturata da una carrozza che si era fermata davanti al portone. Un attimo e fu sulle scale. Quello successivo, lei e Lucy erano l'una nelle braccia dell'altra. Oh, Gertie, sono trascorsi 100 anni? Migliaia, Lucy! Come stai bene? Come mi sembri cresciuta? Andavano giù e su, mano nella mano, le sorelle, in ogni angolo e cantuccio della piccola proprietà, esclamando, spiegando, chiedendo e rispondendo a centinaia di domande. Oh, Lucy! Esclamò Gertrude in uno scoppio di entusiasmo mentre si trovavano nello studio. Questo è il lavoro, questa è la vita. Penso che non abbiamo mai lavorato o vissuto realmente prima d'ora. Fan e Phyllis scivolarono fra le tende per unirsi a loro. Siamo tutte qui, continuò Gertrude. Spero che nessuna abbia timori, ma che ognuna capisca che non è un letto di rose quello che ci siamo preparate. Dovremo lavorare come neri e non avremo molto da mangiare. Credo che tutte lo comprendiamo, disse Lucy con un sorriso incoraggiante. Vita semplice e pensiero elevato, azzardò Fanny. Quindi, alla sua stessa inaspettata brillantezza, fu sopraffatta dalla confusione. Almeno, disse Phyllis, tutte noi siamo in grado di gestire una vita semplice e per iniziare, voti di andare al piano di sopra per la cena.